in primo piano. Martedì 2 novembre i giornali si dedicano soprattutto appunto alla questione politica, il tema più gettonato, il titolo più gettonato è quello del Corriere della Sera, il PDL affini con noi o stacca la spina, l'ipotesi dell'appoggio esterno anche per Repubblica, Berlusconi ultimatum affini, così La Stampa. Mentre il giornale un'altra escort che barba per il giornale, perché sì, è spuntata una nuova escort, lo vedremo più avanti. Io vorrei partire da una segnalazione di pagina 28 del Corriere della Sera con la scrittrice Susanna Tamaro, che si cimenta su un tema: le tonnellate di cibo sprecato e l'ingratitudine verso la terra. Nei giorni scorsi è apparsa questa notizia di 17 milioni 700 mila tonnellate di cibo che vengono sprecate ogni anno. Una somma che messa insieme è l'intero consumo del paese. E si chiede Susanna Tamaro sul Corriere: la maggior parte di noi ormai non ha molte occasioni di vedere un campo coltivato, eppure è sempre solo la terra a dare i frutti, sempre a lei siamo legati dal rapporto di maternità del nutrimento. Ci rendiamo davvero conto delle conseguenze di questo spreco? Non delle conseguenze economiche, ma di quelle che coinvolgono il nostro cuore, il senso più profondo e radicato del nostro esistere. Una società che disprezza i frutti della terra, che ha rotto il progetto della cura, che ha cancellato la gratitudine dai suoi sentimenti. Che società può essere? Si possono distruggere montagne di cibo e poi avere dei bravi figli, dei cittadini rispettosi, degli adulti responsabili e compassionevoli? Rivendichiamo perché ci sentiamo delusi, ci sentiamo arrabbiati e rivendichiamo. Siamo delusi perché sentiamo che qualcosa ci è stato portato via. Facciamo i conti e i conti non tornano mai. Una società di risentiti non è più capace di seguire un progetto e dunque non è più capace di educare. E si chiede Susanna Tamaro: sarebbe bello che quegli alimenti gettati, quelle milioni di tonnellate, diventassero il totem intorno al quale riunirsi per dire è ora di cambiare. Le tonnellate di cibo sprecato, l'ingratitudine verso la terra, di Susanna Tamaro sul Corriere. Sempre è sul Corriere, ma sui vari giornali in realtà. Voglio segnalare la storia di Martin van der Burgt, la troviamo a pagina 24 del Corriere, ma anche sul giornale a pagina 15, da Venezia all'Olanda per morire come Eluana. Martin van der Burgt, la voce sicura, come l'amore che serba nel cuore, sono stato sposato per 36 anni con la mia Anna, che il 4 novembre scorso con un aneurisma è andata in stato vegetativo. E allora questo signore olandese, che ha fatto di questa donna, sua moglie veneziana, l'ha presa, l'ha portata in Olanda, dove è consentita l'eutanasia per legge. Le ASL venete avevano cercato di fermarlo, bisognava aspettare per capire se lo stato vegetativo fosse davvero permanente, ma questo signore ha detto: era la volontà di mia moglie. Non ho esitato, ho cercato per lei l'eutanasia. Ovviamente infurono le polemiche, le volontà della donna erano scritte nel testamento biologico che in realtà in Italia per legge non c'è. Porta la moglie in Olanda per farla morire, anche su pagina 15 del giornale. La donna, secondo il marito, era in coma irreversibile, i medici italiani si rifiutavano di staccare la spina, lui è che ha fatto la portata in Olanda. E tra l'altro il giornale mette insieme Giordano Bruno Guerri, che dice: io li capisco, mentre Luca Doninelli in un altro commento dice: io non li giustifico assolutamente. Un tema che si ripropone, un tema etico molto, molto profondo, molto interessante, da questa storia che trovate sui giornali di oggi. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dalla politica e da tutti i suoi turbamenti. La politica davvero è a uno snodo, e questo lo si evince leggendo tutti i quotidiani in edicola, perché ieri tra l'altro il Popolo della Libertà ha lanciato un vero e proprio ultimatum a Fini e Finiani: con noi o apra la crisi. E questo è un po' il titolo d'apertura di tutti i giornali. Lo troviamo anche a pagina 11 del Sole 24 Ore, il punto: PDL affini con noi o apra la crisi. Berlusconi che dice: non mollo. Poi vediamo un po' tutti i vari retroscena, ma insomma anche in prima pagina del Sole 24 Ore, Stefano Folli, nel suo editoriale la maggioranza è divisa, il paese non ha più guida, è netto, un punto è certo, scrive Folli, il governo Berlusconi è paralizzato, virtualmente morto, si potrebbe dire, per la perdita di credibilità della sua guida. Funziona la garanzia dei conti pubblici affidata a Tremonti, ma per il resto nessuno si fa illusioni. Basti dire che la maggioranza alla Camera vive sul voto dei Finiani, un gruppo il cui leader, appunto il presidente di Montecitorio, ha appena chiesto le dimissioni del Premier se fossero vere le pressioni di Palazzo Chigi sulla questura di Milano. Se fossero vere per Folli è una foglia di fico. Di fatto il gruppo che ha le chiavi della maggioranza ha reclamato per la prima volta le dimissioni di Berlusconi, eppure la richiesta di Fini non è ancora un abbandono unilaterale della coalizione di governo nella quale Future Libertà, ricordiamolo, dispone di ministri e sottosegretari. Al contrario, i finiani vogliono evitare questo passo definitivo che attirerebbe su di loro gli applausi dell'opposizione, ma finirebbe per restituire compattezza all'asse PDL Lega e renderebbe più difficile la ricerca di un esecutivo di transizione, ricerca peraltro esoterica, scrive Folli, perché questo governo a tempo è ancora privo di forza parlamentare e orizzonte programmatico. La sensazione, leggendo tutti i giornali, è che davvero si sia una svolta, tanto che il Corriere scrive a pagina 5: Future Libertà tentata dalla carta dell'appoggio esterno, resta l'ipotesi di richiesta di dimissione del Premier. A Perugia in questo weekend ci sarà il lancio ufficiale della prima, ci sarà la prima convention nazionale di Future Libertà, e qualcuno giura che a Perugia ci sarà la rottura di Fini. E certo anche il ministro Ronchi a Repubblica, il finiano Ronchi, dice ci sarà da qui in questa settimana fino a questo weekend, qualcosa succederà, è la settimana decisiva. Ed eccoli qui allora in retroscena, pagina 3 del Corriere della Sera, Marco Galluzzo: se lascio è un danno per il paese, Berlusconi che pensa alla piazza. Se non ci fossi stato di mezzo io non sarebbe mai partita un'indagine penale. Ovviamente si parla della vicenda Ruby, ma non solo, perché vedremo che oggi è sui giornali è scoppia un'altra vicenda che viene da Palermo. Per Berlusconi ancora, ecco l'anticipazione del libro di Bruno Vespa, non si capisce neanche come inserirle nel contesto quotidiano, perché chiaramente sono anticipazioni del libro, dunque interviste rilasciate un po' di tempo fa, giusto il tempo di mandarle in stampa, e intanto la situazione cambia. Però in un'intervista a Bruno Vespa Berlusconi ha detto, ma qualche tempo fa, avremmo gradito e gradiremmo un appoggio alla nostra maggioranza e mi auguro dell'UDC che l'UDC valuti a fondo questa possibilità nell'interesse del paese. Ma forse gli eventi in qualche modo hanno superato questa intervista, chi lo sa. Intanto Ignazio La Russa, pagina 3 del Corriere, fa un'intervista ad Alessandro Trocino e dice sulla questione della telefonata di Berlusconi in questura per aiutare Ruby: non ha alcun rilievo penale, aveva tutto il diritto di farla. Gli potrà servire, certo, per capire che a volte è più importante la prudenza dell'umanità e della generosità. È solo umanità? Chiede Trocino. Berlusconi mi ha detto di essersi interessato alla sorte di una ragazza che credeva maggiorenne come un qualunque privato cittadino. Ma lui è il Premier, l'esito è stato lo stesso. Il pubblico ministero dice però di non avere disposto l'affidamento alla consigliere regionale Minetti. Io credo alla questura, dice La Russa. La PM perché, se ha subito questa ingiustizia, ha aspettato 5 mesi per gridare allo scandalo? E sulla questione politica anche La Russa ribadisce: Fini deve scegliere o responsabilità o rottura. Il retroscena però più netto è su Repubblica, pagina 3. Carmelo Lo Papa dice: ora spunta la carta Alfano, cioè secondo alcuni rumors addirittura ci sarebbe un'ipotesi di soluzione interna alla crisi che contemplerebbe un colpo di scena, l'avvicendamento a Palazzo Chigi, un Berlusconi che si dimette in cambio di un salvacondotto giudiziario, un'ipotesi che Repubblica giudica non peregrina, circola da qualche giorno, pensata da ministri e maggiorenti del PDL, e a circolare è anche il nome del candidato dell'operazione, quello inattaccabile del guardasigilli Angelino Alfano. Lui o l'evergreen Gianni Letta, insistono i rumors, se il Premier accettasse di farsi da parte. Non accetterei mai un patto di questo genere e mai farei un passo indietro. Questo è attribuito a Silvio Berlusconi. Insomma, vedete, la situazione è davvero caotica. Guardate il titolo di Libero, Libero in prima pagina. Attenti, viene giù tutto. Ogni cosa sembra congiurare contro Berlusconi, ma se si va alle urne è ancora lui quello che rischia di meno. Non c'è più tempo, solo il voto subito può salvare il Cavaliere. Quindi Belpietro, non è la prima volta, rilancia il voto subito. Questo ricordo è il tema anche del nostro sondaggio. Ci fosse una crisi di governo, secondo voi bisognerebbe andare al voto oppure governo tecnico? Scegliete su radio24.it, votate. Il titolo della Padania è emblematico per capire cosa ne pensa la Lega. Calderoli, governo tecnico mai. Servirebbe solo a fermare le riforme ormai addirittura d'arrivo. Sarebbe un colpo di Stato. Poi ha aggiunto anche dei fighetti. E quindi la Lega dice no. E anche il ministro Sacconi, intervistato da Davide Colombo a pagina 8 del Sole 24 Ore, dice no a governi di rottura. Sul governo tecnico credo che Napolitano non potrebbe mai accettare un governicchio debole, un governo della rottura nazionale utile solo a consegnare il potere democratico a chi è stato sconfitto dal voto o a chi con il voto stesso non si confronta mai. Sul caso Rubi, se si arrivasse alla sfiducia in Parlamento, vedo il ricorso alle urne. Questo dice Sacconi. Insomma, vedete che comunque tutti gli esponenti politici prevedono che un qualcosa succederà e mettono anche in conto che si possa arrivare a una crisi di governo. Il Secolo d'Italia, che è l'organo dei Finiani, di Flavia Perina, direttore e onorevole Finiana, guardate cosa mette in prima pagina. Il programma prevedeva anche Rubi, con la foto di Rubi, il programma di governo ovviamente. Dopo lo scandalo, FLI rilancia, dimostrino di voler governare. Come vedete, la questione politica ha sopravanzato la questione dei fatti da accertare o no, cioè la vicenda Rubi. Anche per Ugo Magri sulla Stampa, il Cavaliere barcollante teme che arrivi il peggio. Il peggio è, chi lo sa, quello che sta arrivando oltre che da Rubi, da Palermo. È il titolo di prima pagina anche del giornale, un'altra escort che barba. La procura di Palermo ha raccolto le testimonianze di Perla Genovesi, 32enne, nata a Parma, arrestata dai magistrati nel luglio scorso in un'indagine su un presunto traffico internazionale di cocaina. Questa Perla Genovesi, che è stata in passato anche assistente parlamentare di un parlamentare del Popolo della Libertà, il deputato Enrico Pianetta ha fatto riferimento a un'altra donna, tale Nadia, 28 anni, che a sua volta ha parlato abbastanza poco del traffico di cocaina e molto più del suo lavoro di escort, confermando frequentazione della residenza estiva di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda a Villa Certosa. Ha tirato in ballo anche il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, che viene subito sentito dal Corriere della Sera. Renato Brunetta dice: l'ho vista una sola volta, a pagina 9, non sono mai stato a Villa Certosa. Sentito da Enrico Marro, dice: sì, ricordo questa ragazza, mi avvicinò, conosco Perla Genovesi, era assistente parlamentare di Pianetta, venne nel 2006 durante un convegno elettorale, mi disse che aveva un'amica con un gravissimo problema che riguardava l'affidamento del figlio, un bambino in tenera età che credo le avessero portato via o volessero portarglielo via, mi chiese in lacrime se poteva aiutarla, gli segnalai un paio di avvocati del ramo al quale rivolgersi, tutto qui, non l'ha vista mai più, l'ho vista solo quella volta, la cosa è finita lì. E riguardo a Villa Certosa, non ho mai partecipato alle feste di Berlusconi, non so neppure dove sta. Il Fatto Quotidiano la mette in prima pagina così: c'era anche la droga, virgolettato, dalla Sicilia un'altra storia di festini a Villa Certosa ancora più grave di quella di Rubi, parla un testimone, anzi una testimone. Perla Genovesi anche sul giornale, anche Palermo va a caccia di escort, La Stampa, feste ad Arcore, spunta una cubista, c'erano politici, Repubblica, una pentita, sesso e droga alle feste del PDL. Oh, avete capito qual è il clima che si sta respirando in questo stralcio di Seconda Repubblica? E poi c'è Rubi ovviamente rilascia ancora un paio di interviste, ne fa una con Repubblica e una con Libero. A Repubblica Paolo Berizzi dice prendiamola, la intervista dice prendiamola con le molle, insomma cerchiamo di capire quello che dice, gioca a nascondino da una settimana, ora è diventata maggiorenne, anche su Repubblica e su tutti i giornali oggi la potete vedere con il viso suo, non più con gli occhi oscurati, visto che non è più minorenne. Ha sentito più il premier Karima? Karima, adesso la chiamano Karima, non più Ruby. No, nella vita ci sono porte che si aprono e che si chiudono. È vero che il Presidente del Consiglio si è adoperato per lei? Secondo la procura in modo irrituale? Meno male che Silvio c'è. Questa è la risposta di Karima. Slogan a parte, perché Berlusconi si è infilato in questo guaio per lei? Mi ha aiutata e basta, io lo ringrazio. Fa bene a dire che ama la vita e ama le donne. Ognuno può fare quello che vuole. Certo, se vai a donne. Se vai a donne, gli consiglio di essere più discreto. Ci sono tante oche o occhette che passano da casa sua, magari lo possono fregare. È vero che gli ha regalato un'auto? Magari, magari me l'avesse regalata. Che gli ha dato in cambio? 7.000 euro. È andata quante volte da Berlusconi? 2 volte. C'è andata con Fede? No, in taxi con un'amica. Mentre a Libero l'intervista è vado da Santoro. Vado in TV da Santoro. Perché va in TV, chiede Alessandra Menzani, per togliermi l'immagine della zoccoletta. La vera Ruby è una ragazza normale. Lei cerca popolarità? No. Beh, non mi sembra. Non sono come Noemi Letizia. Il premier lo chiamo premier e non lo chiamo papi. E poi, beh, ma lei è consapevole, va ad essere strumentalizzata dai suoi nemici, dai nemici di Berlusconi in TV. Ma chi se ne frega, sono maggiorenne, non importa se Berlusconi non ha piacere che vada in TV, non dipendo da nessuno, sono libera di dire e fare quello che voglio. Che dirà da Santoro? La verità. Quale delle tante? Perché ovviamente ne ha date tante, diverse. Vedrà giovedì, dice Ruby, che chissà poi se andrà davvero da Santoro, perché non si... Cos'è il bunga bunga? Eccola qui la domanda che Alessandra Menzani di Libero fa a Ruby. È una barzelletta raccontata dal premier. I dopo cena non li ho mai visti. Che sta scrivendo un libro? Sì, con chiare lettere. Lo scrivo col giornalista di Panorama, Giacomo Amadori. Uscirà a dicembre. Contattiamo Giacomo Amadori, fa sapere Libero che dice non sto lavorando ad alcun libro. E vabbè, questa è Ruby su Libero e ora ci fermiamo per il traffico. È un giorno molto importante negli Stati Uniti, se si vuole dare un ampio respiro, guardare un po' ad altri orizzonti, perché ci sono le elezioni di midterm, come forse avrete sentito anche nel nostro notiziario. Tra l'altro voglio segnalare per questo l'ultima pagina della stampa, come ogni giorno, è una pagina secondo me molto interessante e intelligente, perché il giornalismo ha perso un po' la funzione didascalica di spiegare le cose poi nel loro senso più semplice. Ebbene, l'ultima pagina della stampa spiega cosa sono le elezioni di midterm, perché si vota oggi negli Stati Uniti, si rinnova che cosa? Il totale della Camera dei Deputati è un terzo circa del Senato. Tra l'altro il Sole 24 Ore apre in qualche modo su questo, perché il titolo di apertura è il voto frena Wall Street, la borsa teme che cosa? Le tensioni tra il presidente Obama e il congresso, i mercati finanziari sono paralizzati dall'incertezza che circonda l'esito delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti e le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Anche il Corriere della Sera vi dedica l'editoriale di prima pagina con Massimo Gaggi, la grande amnesia, questo è il titolo. E parla di un Obama, la voce roca per il freddo, l'umidità, le tempie sempre più grigie da una città all'altra d'America. Barack Obama ha sfidato fino all'ultimo il fantasma della grande amnesia, quella di un paese che ha dimenticato dove era finito 2 anni fa. Il ceto medio demolito da 2 decenni di distribuzione estremamente sperequata del reddito, gravato da un debito insostenibile, una crisi finanziaria senza precedenti che stava per produrre una vera apocalisse del risparmio. La narrativa scelta dal presidente per cercare di scuotere il suo elettorato disilluso è quella dell'auto fatta precipitare in un burrone dai repubblicani. L'hanno lasciata lì e se ne sono andati. È toccato a noi andarla a recuperare. È vero, scrive Gaggi, che se l'America è finita in un burrone, ciò è dipeso soprattutto dagli errori commessi nell'era Bush. Non è vero però che ora il paese sia di nuovo in carreggiata, pronta a ripartire, chiudendo la parentesi di una crisi sfortunata. Ha fatto la riforma, dicono molti dei suoi elettori, la riforma sanitaria per esempio, ma io ho bisogno di lavoro e non di medicine. La disoccupazione divora benessere e fiducia e tutto fa pensare che resterà elevata ancora per anni. È davvero uno snodo cruciale per la presidenza presidenza di Obama, che a detta di tutti gli analisti si ritroverà oggi col rischio di avere una Camera dei Deputati in minoranza, cioè in mano ai repubblicani. Questo è il rischio dunque di un presidente depotenziato nei successivi 2 anni di mandato. Comunque seguiremo ovviamente le elezioni di midterm. Noi invece in Italia, io sono veramente sconvolto nel vedere le foto che potete vedere sul Secolo XIX, per esempio su tutti i giornali il Secolo XIX lo mette comprensibilmente in prima pagina, perché i fatti più gravi sono avvenuti tra la Liguria, la Toscana, anche in Veneto per la verità. Sepolti dal fango, questo è il titolo del Secolo XIX, c'è la foto di un treno locale deragliato. Basta un po' di pioggia in Italia, è davvero incredibile. La pioggia affonda il centro-nord, anche sul Sole 24 Ore, Marica Gervasio, 3 morti in Toscana, un treno deragliato in Liguria, 5 feriti, emergenza in Veneto, città e strade allagate. Luca Zaia, il governatore del Veneto, dice una situazione catastrofica. E ci si pone le solite domande, cioè è sempre così in Italia, basta la pioggia ogni anno un po' più insistente, ma una pioggia di 2 o 3 giorni, non possiamo certo paragonarla alle piogge dei monsoni che ci sono in India o in Estremo Oriente o in Sud America, insomma, e basta questa pioggia e da noi succede il disastro. Abusivismo e trascuratezza, il paese è una bomba a tempo, è l'ennesimo e resterà inascoltato e inutile l'allarme lanciato da Pietro De Paola, il presidente nazionale dei geologi. Al Quotidiano Nazionale fa un'intervista, pagina 5, a ogni perturbazione è sempre la stessa storia. Inizia così sconsolato. È matematico, se piove un po' di più del normale si ripete lo stesso copione di frane, smottamenti, esondazioni, una situazione che denunciamo da anni, ma alla quale si risponde con la solita litania di promesse alle quali fanno seguito pochi e comunque inadeguati fatti. Anche per il Fatto Quotidiano, a pagina 7, Ferruccio Sansa dice basterebbero 4 miliardi di euro secondo l'associazione Bonifiche. 4 miliardi di euro è una cifra importante, ma non impossibile per un paese come il nostro. Ed ecco che le tragedie potrebbero essere evitate. Anche Franco Battaglia, uno che sul giornale spesso fa interviste dicendo basta i finti allarmi dell'OGM, del nucleare, dell'inquinamento elettromagnetico. Io da 10 anni, dal 2000, quando mi intervistarono la prima volta, dissi: sapete qual è il problema? Il dissesto idrogeologico. Quello sì è un problema serio. Franco Battaglia scrive oggi sul giornale: quegli allarmi che cadono nel vuoto. Ogni anno a novembre capita la sciagura. D'altronde è così. Ancora 2 segnalazioni dai giornali. La prima viene a pagina 25 del Corriere della Sera, la troviamo in realtà anche sui vari giornali, io l'ho trovata qui, è quella che lanciata dalla rivista scientifica Lancet, ripresa con grande risalto nei principali quotidiani della Gran Bretagna, è una ricerca del professore David Nutt, uno che per la verità in passato è stato sollevato dall'incarico di consulente governativo della lotta alla droga perché si era rifiutato, su richiesta dell'allora ministro della sanità, di riportare la cannabis a un elevato livello di pericolosità B, al livello B invece era a livello C. Ebbene, ieri Nutt ha fatto questa ricerca e ha detto: l'alcol è la droga che fa più danni, peggio dell'eroina. Non l'eroina, non la cocaina, il crack, la cannabis, la droga più pericolosa è l'alcol. Questo è lo studio realizzato in Gran Bretagna che è stato rilanciato su Lancet, quindi una rivista scientifica di tutto rispetto. Il nostro studio, ha detto Nutt, conferma quanto rivelato da studi realizzati precedentemente in Gran Bretagna e in Olanda. Il sistema attuale di classificazione della droga ha scarsi legami con la dannosità reale. Beh, certo, farà discutere anche questa ricerca. L'ultima segnalazione viene da il film, o meglio la fiction, su Papa Pio XII, una fiction che agli ebrei, alla comunità ebraica di Roma in particolare, non piace. Il rabbino contro la fiction, propaganda su Pio XII. Il rabbino capo di Roma è Riccardo Di Segni, falso che il suo intervento aiutò gli ebrei. Ha visto il film e al mensile Shalom ha diffuso la sua reazione, una reazione molto dura. Molto semplicemente, questo sceneggiato è una patacca, così l'ha definita Riccardo Di Segni. Su questa storia c'è una drammatica discussione da moltissimo tempo con opinioni contrapposte, mentre questa fiction appoggia in pieno una delle due opinioni. Mi meraviglio come la RAI abbia potuto consentire una realizzazione così parziale, venendo meno all'obbligo di informazione obiettiva di un servizio pubblico. Insomma, Riccardo Di Segni, 60 anni, rabbino capo di Roma, dice: quella fiction su Pio XII è una patacca. Votate il sondaggio: in caso di crisi, governo tecnico o elezioni? Ora il GR.